Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Sballottation, sballottation. Ehi, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Sballottation, sballottation. Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Ecco Svalutation di Adriano Celentano, reinterpretata da Rafael Galazzi. Mi piaceva un sacco mettere questa musica perché era l'epoca degli anni 70 quando Celentano cantava Svalutation e c'erano continue cifre, non si capiva se ci fosse la crisi o non ci fosse la crisi, mancava il petrolio, si veniva invitati all'austerità, però nel contempo la nostra produzione industriale cresceva. Già, produzione industriale, sembra tutto un po' un tirare i numeri dell'otto. Secondo il centro studi di Confindustria, a marzo la produzione ha fatto il meno 0,4% rispetto a febbraio, quindi è andata male. A febbraio ha fatto più 1,3% rispetto a gennaio, quindi è andata bene. A gennaio era in calo. Invece a dicembre c'è stato il dato strabiliante, quasi più 6,6%. Dunque sembrerebbe che la produzione industriale sia ballerina, più 6, meno 1, più 0,4, più 1,3%. Io che conduco questa trasmissione che si chiama Fabbrica 2.4, quindi dedicato alla manifattura, dedicato alla produzione industriale, vorrei, al di là delle cifre un po' da Svalutation di Adriano Celentano, cercare di capirne qualcosa di più. E allora, per aiutarci a decrittare questo balletto di cifre, abbiamo qui ospite Patrizio Bianchi, che è uno dei nostri migliori economisti industriali, e a lui chiediamo, buongiorno professore intanto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E a lui chiediamo, ma insomma, questo balletto di cifre che cosa significa? La produzione industriale è in crescita o no? Ma vuol dire innanzitutto che noi ormai stiamo misurando la febbre con anche dei termometri molto sofisticati. In realtà se mettiamo in fila tutti i dati vediamo che nell'ultimo anno poco alla volta, con un passo qua e un passo là, però la produzione industriale nel suo complesso sta crescendo. Quindi lo vediamo su un periodo più lungo, perché a volte vedere anche i dati mese per mese, insomma, ci mettono tanta ansia. Il dato è che sta crescendo, è quello che abbiamo come controprova, è che pur faticosamente e in maniera molto diversa nelle diverse aree del paese, la disoccupazione sta calando. Vuol dire che una produzione industriale non solo fatta di ripresa di macchine, ma anche di buona ripresa di occupazione. Buona ripresa di occupazione, insomma, però con la crisi abbiamo perso più di 10 punti percentuali. Secondo lei torneremo col manifatturiero ai livelli pre-crisi? Ma abbiamo perso anche un quarto delle nostre imprese, cioè abbiamo perso anche tutto quello strato di piccole, piccolissime imprese, ma anche di imprese medie tradizionali che costituivano in molte parti del paese il tessuto industriale che avevamo. Sì, noi andremo a ricostruire un tessuto industriale, lo stiamo ricostruendo, ma sarà diverso da quello che abbiamo lasciato e sarà anche con delle localizzazioni diverse. Quindi quando si dice ad esempio la crisi e in più della crisi, questa grande rivoluzione industriale, questa del 4.0 come si chiama, le nuove macchine distruggono lavoro, sì è vero, distruggono lavoro e creano altri lavori. Il vero problema è che abbiamo delle persone che vengono colpite dalla crisi e dall'automazione e abbiamo persone che guadagneranno dalla crisi e dall'automazione perché faranno nuovi mestieri e quindi la transizione è, come abbiamo visto, spesso dolorosa e faticosa, anche perché all'interno di uno stesso paese ci sono più macchie di prima, situazioni molto più diverse di prima. Ecco, sull'automazione ci fermeremo a parlare nella seconda parte della trasmissione, anche perché volevo leggere alcune mail di ascoltatori che sono arrivate in merito al dibattito che io ho lanciato sui robot e la robot tax. Intanto però stiamo al tema della produzione industriale. Ascoltate i principali numeri in questa scheda. La produzione industriale italiana procede lungo una crescita lenta e a singhiozzo. Nel 2016 è ancora di 5 punti percentuali sotto i livelli del 2010, cioè subito dopo la grande crisi. Ma veniamo all'oggi. A febbraio l'Istat rileva un aumento dell'1% rispetto a gennaio e dell'1,9% su base annua. Il mese precedente, cioè a gennaio, si era registrata una forte perdita, meno 2,3% rispetto a dicembre. A dicembre 2016, invece, c'era stato un poderoso balzo in avanti del 6,6%, mentre per marzo 2017, giusto a ribadire il singhiozzo, l'ufficio studi di Confindustria prevede un ulteriore arretramento congiunturale, più modesto però, meno 0,4%. In ogni caso, il bilancio di inizio anno è positivo. Il primo bimestre segna una crescita della produzione industriale dello 0,9%. Nel confronto tendenziale, a crescere è soprattutto il comparto dell'energia, con un più 7%. Nel confronto mensile, tuttavia, la produzione di energia è in forte calo, meno 6,2%. Su mese, invece, vanno bene i beni durevoli, più 2,9%, quelli strumentali, più 2,9%, e quelli intermedi, più 2,2%. Ancora più in dettaglio, i settori che nel confronto congiunturale aumentano la produzione sono le industrie alimentari, quelle del legno, carta e stampa, la metallurgia, i prodotti chimici e la fabbricazione di mezzi di trasporto, cioè l'automotive. La ripresa del gruppo FCA è, insieme all'energia, il maggior traino della ripresa industriale italiana. Quest'ultimo dato è confermato anche dall'ANFIA, l'associazione della filiera delle industrie automobilistiche, che rileva un recupero della produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme. A febbraio 2017 cresce del 6,4% rispetto allo stesso mese del 2016, quando aveva chiuso a più 10%. Male invece le industrie farmaceutiche, quelle di computer, di prodotti di elettronica e di ottica, le industrie tessili e di abbigliamento, pelli e accessori. Tornando all'automotive, va rilevato che da quando il settore esiste, ha sempre avuto in tutto il mondo un andamento ciclico. Per alcuni anni va a gonfie vele, per altri anni declina. Dunque il suo ruolo di traino della produzione industriale italiana fa pensare: che cosa accadrà quando l'automotive inizierà l'inevitabile ciclo negativo? Per marzo, il centro studi di Confindustria, pur aspettandosi un leggero arretramento, fa notare che gli indicatori qualitativi mostrano una tendenza positiva. Per esempio, gli ordini sono cresciuti allo stesso ritmo di febbraio, sostenuti soprattutto dalla domanda internazionale. Inoltre, la fiducia delle imprese manifatturiere, rilevata dall'Istat, è in crescita. Ecco, abbiamo finito la scheda con i dati sulla produzione industriale, ma professor Bianchi, dicono che il 2017 potrebbe essere l'anno della svolta? Io vedo che c'è una forte ripresa in talune aree e in taluni comparti. Quali sono i comparti che stanno crescendo molto? Sono quelli che avevamo già individuati, cioè le macchine. Non dimentichi che l'Italia nel giro di 10 anni ha cambiato molto il suo profilo. 10 anni fa noi vendevamo in giro per il mondo 2/3 di abbigliamento e cibo e 1/3 di macchine. Oggi vendiamo 2/3 di macchine, cioè di tecnologie, e il terzo che rimane, gli abiti, il cibo, sono cambiati molto perché sono prodotti certificati, prodotti firmati, prodotti di qualità. Quindi stiamo cambiando. Quindi quando facciamo anche il confronto a come eravamo, certo stiamo tutti lavorando, tutto il paese sta lavorando per recuperare l'occupazione, ma non sarà l'occupazione di prima e non sarà l'industria di prima, perché è proprio la trasformazione l'elemento che caratterizza questa fase. E quindi secondo lei dove andremo a finire? Poi lancio la pausa dopo che ci dice questo. Che paese saremo noi fra 5 anni o fra 10 anni? Noi abbiamo, io credo, scenari diversi. Quello, se tutto va come va, lasciandolo andare, sarà un paese che avrà un'area centrale essenzialmente da Milano, Bologna, Firenze, diciamo, che sarà molto concentrato su macchine di produzione e che comincerà anche a sviluppare una forte capacità di produzione di quella cosa che vorrei chiamare tecnoscienza, cioè l'incrocio fra i sistemi scientifici e i sistemi tecnologici. Era Carlo Cattaneo che parlava di tecnoscienza, sì. O sbaglio? No, lei ha ragione. e lì avremo un problema enorme che già si sente. Non avremo persone, cioè non avremo persone sufficientemente qualificate né a livello alto, dottorati, ma neanche a livello intermedio, tecnici, per poter sostenere questo cambiamento. E avremo un'altra parte del paese che invece non riesce a trasformarsi. Però guardi, se lei vede gli Stati Uniti di Trump, lei vede la stessa cosa, vede una California e New York, Boston, che stanno crescendo molto, che attirano persone con delle qualificazioni molto legate a questa nuova industria, dove si parla di creatività, dove si parla di nuove forme di rapporto fra la scienza e l'industria, e abbiamo il corpo centrale, quello appunto dei famosi 6 milioni di voti legati all'improbabile rilancio delle miniere di carbone. Ecco, questa delle miniere di carbone mi fa ridere, perché anche se riuscissero a rilanciarle, ormai nella miniera di carbone, e per fortuna, ci va il robot. L'operaio della miniera di carbone è andato a casa e lì resterà se non ha la fortuna e il talento di inventarsi altro. Guardi, io credo che sia proprio questo il tema. Quindi io credo che il vero tema sia che dobbiamo essere molto lucidi e sfuggire alle tentazioni del pensare che si ritorna ad un passato che non c'è stato. Nelle miniere di carbone si stava malissimo e dentro le miniere di carbone oggi andranno dei robottini che saranno in grado, teleguidati, di fare cose che neppure il più abile dei minatori faceva. Dall'altra parte è vero che sono state sviluppate tecnologie oggi per recuperare un'energia pulita, che il carbone fatto nella maniera che vedevamo allora non c'è più. È proprio questo, sfuggire alla tentazione di contrapporre un passato mitico ad un futuro tutto incerto. Ecco, infatti, quando si sente parlare di robot in questo paese, purtroppo anche su alcuni giornali a diffusione nazionale, spesso compaiono degli articoli che sono molto superficiali e che sembrano ricordare un passato mitico nel quale tutto il lavoro veniva svolto dall'uomo e lavoravano tutti. Questo passato non è mai esistito e non è auspicabile, e l'automazione e i robot portano progresso, ricchezza e ci faranno stare meglio tutti. Noi peraltro siamo un paese di manifattura, dobbiamo difenderla e dobbiamo automatizzarla il più possibile. Io vi dico viva i robot, viva i robot, viva i robot. Ora la pausa. Tutti convocati live nel Santa Santorum dell'Etere, Radio City. Io sono Carlo Gente e con Pierluigi Pardo vi aspetto venerdì 21 aprile, ovviamente dalle 14 alle 15.30, convocati live dal Pavilion Unicredit in piazza Gaia Aulenti a Milano. Faremo insieme una puntata speciale di Tutti Convocati, con tanti ospiti sul palco all'interno della grande manifestazione dedicata al nostro mondo, quello della radio. Vi aspetto. Fabbrica 2.4. Buon sabato e benvenuti nella seconda parte di Fabbrica 2.4, durante la quale parliamo di produzione industriale e cerchiamo di capire come sta andando l'industria di questo paese, al di là delle cifre che vengono buttate qua e là. E lo facciamo con il nostro ospite, che è Patrizio Bianchi, che è uno degli amici di questa trasmissione. Allora, professore, in breve, come sta andando l'industria in Italia? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Guardi, l'industria italiana è, come possiamo dire, divisa. Sono due gambe che non camminano sempre nello stesso momento, nello stesso luogo. C'è una parte di impresa che sta andando bene, sta crescendo anche a ritmi molto superiori alla media europea, è quella che produce macchine, e produce macchine non solo specializzate, ma produce macchine personalizzate e sempre più controllate anche da lontano. Questa è un'industria che produce tecnologia, ed è un'industria che produce tecnologia per fare prodotti, anche prodotti da imprese italiane, di qualità. Questa è la parte che cresce, e cresce anche quella parte di territorio in cui queste imprese sono collocate. E poi anche in situazioni vicine ci sono messi dei pezzi di industria che faticano a trasformarsi e che, orientate essenzialmente sul mercato interno in questi ultimi anni, oggi faticano anche a ritrovare una strada, e soprattutto una strada perché comunque non basta più essere buoni produttori, ma bisogna essere inseriti in circuiti commerciali di grandi dimensioni. Mm-hmm. Questo io credo che sia l'immagine, quindi un'immagine che vede situazioni diverse, però la necessità di politiche in grado di tenere insieme e far crescere tutto il sistema. Ma c'è una politica industriale oggi in Italia? Guardi, io credo che si cominci finalmente a parlare di politica industriale, si stanno facendo dei pezzetti interessanti, possiamo ritenerli non sufficienti, sicuramente l'insieme di azioni che ha fatto il governo che riguardano Industria 4.0, la digitalizzazione che è un punto fondamentale, lo sforzo che si fa su alcuni paesi per penetrare in quei paesi sono importanti, però dobbiamo recuperare l'idea che la politica industriale non la fa il governo, non si fa per decreto legge la crescita, ma deve coinvolgere tutte le amministrazioni e direi anche tutti i sistemi di impresa. Certamente. Senta, professore, lei esprimeva prima un concetto molto interessante, che noi siamo un paese spaccato in due, dove c'è un'area molto avanzata, un'area bisognosa anche di competenze nelle tecnoscienze e un'area più arretrata. Lo stesso può valere se si guardano le filiere di impresa, ce ne sono alcune molto avanzate che investono, altre che sono totalmente al palo. Assolutamente, non solo, ma sono anche situazioni che trovano risposta al mercato del lavoro molto differenziate. Oggi, ad esempio, noi abbiamo un vuoto considerevole, almeno una mancanza di ingegneri meccanici in un settore come l'automobile, soprattutto alla fascia alta, quella alta identificata come i prodotti italiani che si faticano a trovare. Dall'altra parte abbiamo ancora una quota di giovani sparsi diversamente in Italia che non trovano un lavoro adeguato, non trovano lavoro a un lavoro adeguato, e dall'altra parte una serie anche di cinquantenni legati a imprese che non sono riuscite a fare questo passaggio. Non dimentichiamo che abbiamo perso un quarto della nostra struttura produttiva nel giro di 15 anni e d'altra parte ricordiamo che la rimanente industria non tutta è stata in grado di muoversi allo stesso tempo verso il cambiamento. Ecco, ma infatti ci sono delle colpe che sono anche di alcuni imprenditori, non tutti sono imprenditori avanzati, capaci, razionali e onesti, e io ritengo che una parte di queste colpe stia alla base del fatto che c'è stato un calo drammatico degli investimenti. Noi abbiamo perso 10-12 punti di PIL, ma 20-25 di investimenti. E questo calo non è solo spiegabile con la minore fiducia, con la crisi e con il quadro politico. C'è stata una parte di codardia di alcuni, non trova? Beh, io trovo che abbiamo misurato anche la inadeguatezza di una parte dei nostri sistemi imprenditoriali. Guardi, io vedo un fenomeno che è interessante. Vedo molti imprenditori che 15 anni fa hanno lasciato l'Italia per andare a produrre in Bulgaria o in Romania, immaginando di continuare a produrre gli stessi beni che facevano prima a un prezzo più basso. Io vedo che tutti questi sono oggi in grande difficoltà e molti stanno tornando indietro, cioè in una fase di quella che si chiama il reshoring. 15 anni fa avevamo l'offshoring, cioè vado a produrre una parte in un altro paese perché costa meno. Nel momento in cui la qualità diventa fondamentale, ed è la qualità totale, non ti puoi permettere di fare le componenti in una situazione lontana e non controllata. Allora, io vedo che c'è stata una forte sedimentazione anche fra gli imprenditori e vedo anche molte difficoltà in quelle imprese che avevano pensato di sopravvivere semplicemente contando sull'imprenditore fondatore, oppure sulla sua famiglia, oppure sulla dimensione di un'impresa sufficientemente piccola per essere sotto il controllo del proprietario diretto. Credo che ci sia un problema anche proprio di trasformazione del nostro sistema di imprese. Ecco, e molte imprese stanno investendo sull'automazione, e l'automazione è una cosa che io voglio difendere a spada tratta. Più automazione c'è, meglio si sta, più guadagnano le imprese, e più automazione c'è, più si creano posti di lavoro. Io sono favorevolissimo all'arrivo dei robot. Più robot abbiamo e meglio stiamo. E devo dire che, siccome ho lanciato un po' il dibattito sull'arrivo dei robot, la tassa sui robot, invitando gli ascoltatori a scriverci a fabbrica@radio24.it, sono arrivate dozzine e dozzine di mail. Io mi aspettavo degli interventi demagogici, degli interventi contro i robot, invece ho trovato un pubblico molto preparato. Per esempio, c'è un email dell'ascoltatore Pietro Corsi che dice: Premetto che apprezzo le sue trasmissioni e spero che continui a lungo. Grazie, facciamo le corna. Sono convinto che la profezia di Jack Servan Scriber, in cui chiudeva il suo libro La sfida mondiale, fosse corretta, e cioè che il numero di posti di lavoro che la rivoluzione softwareistica avrebbe creato nel mondo, favorendo l'espansione dell'economia, sarebbe stato di gran lunga superiore a quello persi. Basta ricordarsi di come eravamo e di come stavamo 50 anni fa. Insomma, l'automazione permette di difendere i posti di lavoro che ci sono qui, no, professor Bianchi? Ma guarda, questo è un dibattito antico come il capitalismo. Nel 1815 Davide Riccardo scriveva un libro proprio con un capitolo dedicato sulle macchine e contrastando le tendenze in quell'epoca forti nell'Inghilterra, che dicevano che i nuovi telai meccanici per tessere distruggevano il lavoro, lui diceva: attenzione, no. In realtà i telai meccanici, ma noi potremmo dire anche i robot, sono il modo con cui cambia una industria che non fa più i prodotti di prima ma ne fa altri, risponde a nuovi bisogni che prima non c'erano e mette in condizione anche le persone che vi lavorano di avere nuove visioni di vita. Ma lei che cosa pensa della tassa sui robot? Ma guardi, io sono del parere che si tassano i redditi da industria, da lavoro, in maniera proporzionata a quello che emette, e non gli strumenti. Gli strumenti non si tassano, non si tassano né i robot e non si tassa neanche la matita che lei ha in mano. Si tassano sostanzialmente il fatto che lei partecipa con il lavoro che fa, con l'impresa che fa, con i guadagni che fa alla vita collettiva, ma non si tassano i robot. Voglio dire, sarebbe come tassare l'idea che, allora, dato che usiamo l'energia elettrica, bisogna tassare tutta l'energia elettrica, perché tassiamo, perché l'energia elettrica fa fare meno lavoro manuale, a parte il fatto che è difficile definire che cos'è un robot, perché una lavatrice è un robot per lavare. Guardi, il problema è di fondo: o si tassano i mezzi di produzione o si tassano sostanzialmente gli esiti della produzione. Lei partecipa e deve partecipare alla sua attività utilizzando tutti i mezzi migliori che ha per generare più reddito, e quindi generando più reddito partecipare in proporzione alla vita collettiva. Non si tassano le macchine. E dato che abbiamo sviluppato questa riflessione, c'è allora un problema di giungere ad una tassazione coerente in tutta Europa, e c'è un problema di una tassazione che eviti ad esempio di andare a collocare la sede di un'impresa in un posto o nell'altro, oppure che si mettono a fare delle aste tra un paese all'altro per attrarre degli investimenti. Ecco, però l'automazione potrebbe creare dei perdenti assoluti, persone di 50-55 anni. No, l'idea per evitare i perdenti assoluti di introdurre un vincolo all'innovazione, un vincolo al cambiamento. No, un reddito di cittadinanza, però. Questa è un'altra storia. Lei che ne pensa? Io sono di questo parere, noi abbiamo anche fatto delle esperienze in diverse parti d'Italia. Io sul reddito di cittadinanza sono favorevole come misura che accompagna le persone o verso una pensione o verso un altro lavoro, non dei redditi che diventano delle rendite. Purtroppo dobbiamo chiudere, ma avremo ancora nostro ospite il professor Bianchi. Auguro a tutti gli ascoltatori buon sabato e soprattutto buona Pasqua, perché domani è Pasqua. Saluto il professor Bianchi, arrivederci. Buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti.